Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi, oggi è il 6 di giugno e questa puntata la vogliamo dedicare al nuovo welfare che passa da Luxottica. In una situazione come questa, una situazione di crisi economica complicata che Radio 24 vi racconta e vi narra tutti i giorni, Luxottica ha realizzato, a mio avviso, qualcosa di veramente importante insieme ai sindacati, e questo è anche un modello, vi chiediamo, dopo che sentirete queste storie che vi racconteremo, vi chiedo se tutto questo può essere un modello esportabile in tutta Italia, in tutte le aziende italiane, naturalmente con l'accordo e con il contributo sia dell'azienda che dei sindacati, quindi delle parti sociali che si mettono insieme e progettano qualcosa di nuovo, di innovativo. 349 238 6666, perché Luxottica è un'azienda leader nel design, nella produzione, nella distribuzione, nella vendita di occhiali di fascia molto alta, di lusso e anche di settore sportivo. Diciamo è un colosso nel suo genere, sono 70.000 dipendenti nel mondo, 8.000 in Italia, con i sindacati. In queste ore ha siglato un accordo che definirei storico, cioè è un programma di welfare aziendale innovativo. Il sostegno ai giovani, innanzitutto il microcredito di solidarietà, l'assistenza sanitaria, poi ci sono altre cose importanti, queste quelle che interessano a tutti. Da qui parte l'idea del nuovo welfare che passa da Luxottica. Ascoltiamo innanzitutto Pier Giorgio Angeli, che saluto, che è il direttore delle risorse umane e relazioni industriali di Luxottica. Buongiorno. Buongiorno. E saluto anche Giuseppe Colferai, che è il segretario provinciale della Filctem della CGL. Buongiorno Colferai. E Nicola Brancher, che è sottosegretario della FEMCA CISL, sempre che ha firmato questo accordo. Buongiorno Brancher. Buongiorno a tutti. Partiamo da Angeli. Questo accordo può essere esportato, secondo lei, in altre parti d'Italia, in questo modello di welfare, questo modello anche di accordo tra azienda e sindacato? Guardi, proprio per essere davvero davvero diretto, direi assolutamente sì, perché se alla base dell'accordo c'è un forte investimento sulla fidelizzazione e quindi sul senso di appartenenza delle persone che si avvicendano in azienda, credo che rafforzare la fidelizzazione, i legami di solidarietà fra i dipendenti sia estremamente importante per la produttività dell'impresa e per la qualità della vita aziendale, e questo credo valga per qualsiasi azienda al di là della dimensione e della locazione geografica. Quindi la risposta direi assolutamente sì. Vogliamo sentire i sindacati. Allora, Colferai della Filctem CGL, a voi avete firmato un accordo con l'azienda che è un accordo innovativo, almeno così a noi pare. Sì, è vero, noi abbiamo dato continuità a una cosa che avevamo iniziato nel 2009, come ha ricordato a qualcuno, anche un po' più timidamente, perché c'erano delle idee innovative. Oggi, a distanza di 3-4 anni, abbiamo visto che questo può essere una maniera anche innovativa per dare servizi alle persone, per farli trascorrere meglio le 220-230 giornate che devono trascorrere all'interno degli stabilimenti, per cui credo che questo sia tutto estremamente positivo. Ecco, vi leggo già alcuni sms. Abbiamo chiesto se, cominciando a raccontare questo accordo che parla di sostegno ai giovani, di microcredito, di solidarietà, di assistenza sanitaria e di molte altre cose, al 349-238-6666 vi abbiamo chiesto se secondo voi, innanzitutto se secondo voi è un accordo importante, perché a noi pare qualcosa di veramente importante, di veramente storico. Complimenti a Luxottica, dice un nostro ascoltatore da Vicenza. Andrea, ma avete mai sentito cosa aveva fatto la Mazzotto per i suoi lavoratori? Grazie a certi sindacati di oggi, morto tutto. fatto, dice un nostro ascoltatore. Un'altra ascoltatrice invece da Savona dice: sembra un sogno quello che sta facendo Luxottica, d'accordo con i sindacati. Speriamo che questo modello faccia da esempio anche per tutti gli altri settori. Allora, Nicola Brancher, sottosegretario della FEMCA CISL, ci vuole raccontare un po' come siete arrivati a questo accordo con l'azienda? Ma concordo che è un accordo innovativo. Per quanto riguarda il sindacato, di fondo ci sta un ragionamento che stiamo facendo da anni con Luxottica, che è legato principalmente per noi a discutere con l'azienda delle condizioni per mantenere il più possibile il lavoro in Italia. Quindi si ragiona di partecipazione dei lavoratori, di efficientamento dell'impresa, di creare quelle condizioni che migliorano la qualità del prodotto, del processo. Se poi il risultato di tutte queste operazioni qua, oltre a mantenere l'occupazione, viene, come dire, in parte ridestinato ai lavoratori con delle forme intelligenti che guardano sia ai lavoratori ma anche al territorio, con un'operazione di un sondaggio fatto da tutti i lavoratori, quindi con una preparazione importante, io direi che assolutamente va incontro non solo alle esigenze di Luxottica e dei lavoratori di Luxottica, ma di tutti i lavoratori di questo paese che hanno bisogno di mantenere il lavoro, di consolidare le aziende. Allora io vorrei chiedere a Pier Giorgio Angeli, per esempio sulla parte dei giovani, che cos'è che prevede questo accordo? Così per spiegare allora anche ai nostri ascoltatori. Allora, guardi, noi accanto alle prime iniziative a cui faceva riferimento Giuseppe Colferai, che sono quelle che hanno colorato, come dire, la prima fase del nostro welfare, quella che va dal 2009 al 2013, iniziative che si erano concentrate soprattutto sulla condizione delle famiglie, penso al carrello della spesa, penso ai rimborsi dei libri, all'assistenza sanitaria. Oggi abbiamo, direi, aperto insieme alle organizzazioni sindacali, direi, una nuova frontiera, focalizzandoci soprattutto sui figli e soprattutto, se devo essere sincero, laddove i ragazzi cominciano a costruire le basi e quindi a ipotecare il loro futuro, quindi la scuola. Ecco che allora che iniziative di orientamento scolastico, piuttosto che il continuare a premiare l'eccellenza e il merito e quindi accompagnare dei ragazzi fino alla laurea, sollevandoli dall'onere delle tasse universitarie, e direi ancor più contrastare l'abbandono della scuola, perché porterebbe, voglio dire, i ragazzi ad avere un'alta percentuale di rimanere poi esclusi dal mondo del lavoro, significa davvero per noi entrare laddove si possono generare quelle condizioni che possono ridurre il rischio di un'esclusione poi dei ragazzi dal mondo del lavoro. Per cui oggi la focalizzazione sui giovani è in questa direzione. Alcuni ascoltatori, e lo chiedo prima a Colferai e poi a Brancher, ci hanno inviato degli sms che io sintetizzo 349-238-6666, in cui si dice che per arrivare ad un accordo bisogna arrivarci naturalmente in due, e certe volte magari il sindacato, alcuni ascoltatori, nicchia. In questo caso però voi avete diciamo fatto scuola invece. Io dico, l'ho detto prima, forse un po' di titubanza, come su tutte le cose nuove, c'è stato all'inizio, quando abbiamo visto che questo poi incontrava, rispondeva alle esigenze dei lavoratori, alle esigenze dell'impresa, incrociando bisogni da una parte e dall'altra, non abbiamo avuto tentennamenti, siamo andati avanti e oggi credo il sistema sanitario, che era partito con una serie di difficoltà, dimostra che nel campo ci sono state nel 2012 esborsi per 850.000 euro, per cui questi sono stati risparmiati dai lavoratori utilizzando quel servizio, per cui credo che questo sia stato la più bella risposta che può esserci. È chiaro che quei libri sono partiti con 60.000 euro, come diceva prima Pier Giorgio, siamo arrivati a 280.000, vuol dire che i servizi che abbiamo messo in pista hanno incontrato il gradimento delle persone. Allora, Nicola Brancher, grazie Giuseppe Colferri. Nicola Brancher. Ma guardi, lui è un pezzo che, diciamo, che in questo paese qua dovremmo superare le divisioni che ci sono e trovare percorsi da portare avanti insieme azienda e sindacati. Il sindacato non deve avere paura di dire le cose che si fanno in positivo, Questa è una di queste esperienze su cui io non vedo lati negativi, non vuol dire che in azienda problemi non ce ne sono, ma questa è sicuramente un'esperienza che guarda i lavoratori, che guarda l'azienda, che guarda gli interessi generali del territorio e che magari venisse con i dovuti distinguo riproposta in tutte le aziende che seguiamo. In una battuta, Pier Giorgio Angeli, direttore di risorse umane di Luxottica, un'ascoltatrice dice: va benissimo, è tutto bello, bellissimo, un sogno realizzato bene, il welfare aziendale, però non deve essere un pretesto per trascurare o eliminare il welfare statale per tutti. Cosa dice? Assolutamente d'accordo, noi siamo sempre partiti considerando il nostro welfare come sussidiario. Ci sono delle materie che si prestano di più evidentemente a un intervento statale, ci sono altre materie invece che possono essere oggetto di una valorizzazione a livello aziendale e perché no, dare anche forza ad una contrattazione di secondo livello. Per cui prendo il punto e ribadisco che il nostro non può che essere un welfare sussidiario. Grazie Pier Giorgio Angeli, Luxottica, Giuseppe Colferai, CGL, Nicole Brancher, CISA. Vi abbiamo raccontato, credo oggi, un piccolissimo esempio di buona notizia, cioè di come è possibile mettersi d'accordo per realizzare qualcosa che possa funzionare per tutti. Ci risentiamo domani, stessa ora, 13:30, domani saremo a Gomorra, nelle zone di Gomorra, e saranno momenti da incubo.